Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Oggi parliamo di baby pensionati, che è un tema da asilo, trattandosi di baby, anche se sono pensionati. Ma baby pensionati, cioè tipo Fiorello? Ma come sarebbe a dire Fiorello? Fiorello va in TV e dice: salve, sono Fiorello, ho 50 anni ed ho un ciuffo così folto che Little Tony mi ha denunciato per plagio. Sento così giovane che il mio medico è un pediatra. Che figo che sono. È un figo, sì, ha 50 anni però è sull'orlo della pensione. Vabbè, ma dai, ma lui lo fa per pubblicità. E poi guarda, in pensione Fiorello non ci andrà mai. Lui morirà sul palco. Il più tardi possibile, sia chiaro. Certo, scusa, salutiamo Fiorello che sicuramente ci starà ascoltando. Ciao Fiore! Bene, allora, baby pensionati. Baby pensionati. Ma scusa, domanda, esistono ancora i baby pensionati? Perché? Ma sembra una cosa un po' anni 80, no? Come il gel, le spalline imbottite. No, purtroppo no, baby, anzi, a parte che stanno tornando mobile. Anche le spalline imbottite, ma quindi stanno tornando anche i baby pensionati. Anche la scala mobile. Ma quello magari no, però tutta la rivoluzione tecnologica, scusa, che ha mandato in pensione tutti questi cinquantenni, come la metti? Appena dai segni di invecchiamento vieni sostituito nelle aziende di oggi. Ma chi? Da chi? Da uno più giovane, no? Ma se i giovani sono senza lavoro? Lo so, no, infatti non si capisce niente. Ma fatto sta che in America esiste da anni questo Istituto Nazionale per l'Invecchiamento, che è un istituto che sottopone ogni due anni gli ultra cinquantenni a dei test di memoria. Gli fanno leggere delle liste di parole, poi devono ricordarsele, eccetera. Dopo vent'anni di test è venuto fuori che gli ultra cinquantenni che lavorano hanno ancora molta più memoria di quelli che non lavorano più. Quindi nasce il problema di non permettere che i pensionati, i giovani, si riducano il cervello in pappa, che è un grosso problema per la società di oggi, che è così vecchia. Ma certo, perché quando uno va in pensione si mette in stand-by e lo stand-by alla lunga è nocivo. Occhio allo stand-by. Lo stand-by è un pericoloso nemico della famiglia italiana. Non lasciare il tuo elettrodomestico in stand-by. La tua casa potrebbe andare a fuoco a causa dello stand-by. Non lasciare il tuo vecchio genitore in stand-by davanti al televisore in stand-by. Potrebbe andarti a fuoco anche il vecchio genitore. Vabbè, però gli americani, un po' come al solito, scoprono l'acqua calda. Perché, scusa? Era già chiaro a tutti che il pensionato che continua a lavorare in nero per arrotondare è più in gamba di quello che si mette dal ponte a guardare le anatre nel fiume, dai. Perché proprio il nero? Vabbè, ma ricordati, stiamo parlando di baby pensionati, non stiamo parlando dei nonnini che aspettano solo di morire. È morto. Ma no, allegria, dai, per quelli ho pronto io un aiutino. Un aiutino per farli morire più in fretta. Ma no, un aiutino per non annoiarsi, per non star lì a guardare le anatre dal ponte e mantenersi sempre in gamba. Un lavoretto, no? In nero. Cioè? La risposta è nonno barometro. Nonno barometro. Nonno barometro è un soggetto anziano, gravemente malato e privato di assistenza medica. Grazie alle speciali infiammazioni ai nervi e agli esclusivi reumatismi indotti, nonno barometro saprà dirvi con precisione che tempo farà nel mondo reale. Qualche esempio. Ho una fitta alla clavicola, domani è nuvolo, porca puttana. Ho il collo tutto rigido, domani siamo sotto zero, porca puttana! Mi prudono le ascelle, avrò bisogno di una doccia. Nonno barometro, il volto umano della meteorologia. Nonno barometro sarà sostituito gratuitamente al sopraggiungere della morte entro e non oltre i primi 90 giorni dalla data d'acquisto. Tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Tempo se ne finirà, ma adesso è ancora più presto, adesso è ancora più presto, adesso è ancora più presto. Il giorno presto finirà, ma adesso è ancora più presto finirà. le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose, e allora diamo il diritto di asilo. Vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancor più vecchio, che sei ancor più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Chiedo asilo! Beh, lì adesso K mi devo mettere a parlare con l'accento genovese. Oh, no, perché c'è un'altra notizia da un asilo di Genova che arriva come al solito dal secolo XIX. E beh, lì. Vabbè, ma cos'è successo di nuovo a Genova? Finora abbiamo parlato due volte di Chiavari. Per lo spaccio di eroina in due asili, tra l'altro diversi. Lì adesso peggio perché c'è scappato il morto. È morto. Ma dove? A Chiavari? No, stavolta in Val Bisagna. È morto di overdose in un asilo. No, è un povero Cristo che è caduto giù dal quinto piano ed è finito nel cortile dell'asilo. Beh, certo che nei cortili degli asili genovesi non si può mai stare tranquilli. Se è la droga, è la droga. Se ti cascano giù gli uomini in testa, è perché ti cascano gli uomini in testa. Deve essere stato uno shock per i bambini presenti. Immagino di sì. Comunque, tranquillo, le autorità competenti hanno provveduto subito a portare via il cadavere e sottoporlo ad autopsia. Certo, in effetti bisogna scoprire le cause della morte. Vabbè, lì, volare giù dal quinto non basta. Da mesi, da anni, anzi che dico, da decenni, da secoli, si stanno facendo una testa così sulle intercettazioni telefoniche. Ma noi qui a Chiedo Asilo abbiamo il più importante dossier di intercettazioni scottanti che esista in giro. Il bambino Sallusti e il bambino Porro a noi ci fanno un baffo. Anzi, ci fanno una pippa. Meglio di no, dai. Ormai siamo tutti intercettati. Magari non noi, ma il nostro commercialista sì, o il nostro medico, o la nostra escort. Non si salva nessuno. Diffidate dalle solite intercettazioni. Il bambino Moggi, il bambino Berlusconi e il bambino Bertolaso hanno stufato. Sì, vogliamo voci nuove, gente nuova, fatti privati nuovi. Noi vogliamo Insider Trading. Insider Trading. Finalmente. If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. Pronto? Pronto? Allo? Pronto? Mandalin? Mandalin. Vorrei ordinare per K. Lo veniamo a prendere. Che K? Allora, vorrei 4 pezzi in voltini. Tre porzioni di riso alla cantonese. Tre riso cantonesi. Due porzioni di spaghetti con verdure. Con verdure, senza verdure. Soia, sì, di soia. Volevo dire di una porzione di ravioli con verdura. Momento, ravioli con verdura! Una porzione di anatra alle spezie. Una porzione di pollo al limone senza pastella, mi raccomando. Poi, una porzione di maiali in agro dolce. E una porzione di gamberoni alla piastra. Gamberoni alla piastra abbiamo! Sì, basta così. Sì, basta così. Perché ora dobbiamo venire? Domani, dopodomani. Facciamo fra un quarto d'ora? Di adesso o di domani? Un quarto d'ora. Ok, grazie. Ciao. Ma scusa K, promettiamo grandi rivelazioni, grandi dossier, allora? E poi ascoltiamo una telefonata al ristorante cinese. Vabbè, cosa vuol dire? Nel mondo dei dossier tutto fa brodo. Sì, blodo di nidi di Londine, a nuvole di gamberi. Sta arrivando il nuovo di gamberi. Sono buone, croccanti. I funghinelli. No, funghi neri no. Domani e mandate la vostra baby pensione a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.